La cicogna nera. Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma, tierra, agave y sur. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Un minuto dopo le 21, bentornati ai suoni dal mondo della Cicogna Nera. Apriamo con una grande cantante, la cantante messicana-americana Lila Downs. È uscita da poco, pochi mesi or sono, l'ottobre scorso precisamente, con il suo ultimo album, Pecados y Milagros. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para tu bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para tu bien también. Mezcal 06 49 17 50 è il numero della diretta, oppure scriveteci la cicogna nera @ondarossa.info è il nostro indirizzo di mail. Sul sito della radio www.ondarossa.info/trx/la cicogna nera potete anche trovare in streaming tutte le puntate, quasi tutte in realtà, le puntate che sono andate in onda, tranne le ultime due che mi affretterò a caricare. Pecados y Milagros è il titolo di questo album che abbiamo ascoltato ora. La canzone invece era Mexcal, Mezcal, o Mezcalito più precisamente, della canzone di apertura del settimo album da studio di Leila Downs. In questo caso la canzone è stata scritta in collaborazione con tal Paul Cohen, e questo album va ancora di più nella direzione della sua terra natia. Lei, come vi ho anticipato, è metà messicana e metà statunitense. La parte statunitense dovrebbe arrivare dal padre, un professore di qualche università del Michigan o giù di lì, mentre la sua parte messicana, quella della madre, arriva da una regione molto indigena, per così dire, quella che si chiama, che risponde al nome di Oaxaca, dovrebbe essere nell'estremo sud-ovest, se la mia mente non mi tradisce, del Messico, una regione piena di tradizione zapoteca, mixteca, che sono realtà indigene ancora oggi presenti. Naturalmente sono un po' meno conosciute dei Maya e degli Aztechi, ma chissà se la bella Leila ha qualche origine anche lei da questa etnia. Comunque è un omaggio proprio verso la sua terra, verso la regionalità di Leila Downs, e di questo album che possiamo grandemente così dividere in quattro filoni, in quattro solchi principali. Il primo è quello dell'apertura che abbiamo appena ascoltato e che va nella canzone folclorica. Poi abbiamo un'altra parte di questo album che è dedicata invece a, così come dire, alla parte di banda, alla parte della banda. Un'altra parte di canzoni invece si appoggiano un po' all'hip hop, come ritroviamo ad esempio in una canzone che vede in causa un gruppo di hip hop argentino, ecco, vado a ritrovarlo, che si chiamano Ilia Curiaki e The Valderramas, nella canzone Pecadora, che dovrebbe essere uno dei singoli usciti e che però io questi qui non li ho mai sentiti. Adesso magari poi li approfondiremo e ve li passerò. E poi l'ultima parte invece è quella più della canzone, così, della canzone rock, o più della canzone cilena, un movimento della nuova canzone cilena che ebbe dei grandi interpreti. E allora andiamo proprio dall'apertura dell'album alla chiusura. Questa è l'ultima canzone, quella che chiude il disco, si chiama Misa Oaxaquiña, e sono dei versi di un cantatore oaxaquiño, se non mi sbaglio del 1046. Andiamolo ad ascoltare. Venimos a tu casa con cantos de alegría. Venimos a adorarte, rendirte honor y amarte, oh Padre Celestial. Un pueblo ayer quisiste, un Veniamo alla tua casa con canti di allegria, veniamo ad adorarti, a renderti onore e ad amarti, o Padre Celestiale. I versi sono di tal Timoteo Cruz Santos, che è originario di Santiago Yocotepec, proprio nella regione di Oaxaca, in questa valle che sono andato a controllare era così abitata nella civiltà precoloniale da Mixtechi da una parte e Zapotechi dall'altra. E questa era la canzone di chiusura, la Misa Oaxacueña dell'ultimo album di Lila Downs che vi stiamo passando questa sera in apertura della Cicogna, e che è uscito lo scorso ottobre, accompagnato anche da una mostra al Museo Nacional de Arte al Munal a partire dal 21 ottobre del 2011. Questo museo però non sto capendo da quale parte si trovi, se negli Stati Uniti, in Messico e in che città. Comunque un'opera di ritorno alla terra, alla sua terra, come vi ho detto, allo stato di Oaxaca, per l'ultimo album di Lila Downs, che vi vogliamo ancora passare con una canzone, con l'ultima canzone. Andiamola a far partire già sotto, è una canzone che sicuramente moltissimi conoscono, hanno sentito, forse più anche io sottoscritto, l'ho sentita quando ero piccolo, per una sua versione nostrana, per così dire, una versione nostrana che è più una citazione che una rivisitazione, visto che cita solo il refrain, il ritornello nel suo album La voce del padrone, anzi, di Franco Battiato. Si chiama Cucurú Cucú Paloma, è veramente una grande canzone. Dicen que por las noches no más se liba en puro llorar. Dicen que no dormía, no más se liba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cocorro cucú, cantaba. Cocorro cucú, y mía. Sola con sus puertitas de par en par, juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cocorro cucú. vez. Un'intensa versione da parte di Lila Downs di questa famosa canzone, dove potete ascoltare una delle sue caratteristiche più così acute, quella di sostenere a lungo una nota estremamente a lungo alla fine di un verso o di una strofa. Lei è molto, insomma, ci sta molto dentro in questo stile, in questa versione del canto che fa parte appieno della musica ranchera, che è uno stile popolare di musica messicana al cui interno ritroviamo diverse canzoni, naturalmente anche questa Cucurucucu Paloma, scritta nel 1954 da Thomas Mendez e di cui ricordiamo ci sono tantissime versioni. Forse una delle più belle e famose è quella di Caetano Veloso, contenuta all'interno del film non mi viene il titolo, vediamo se lo vado a ricercare. Sì, il film di Almodovar, Parla con lei, una versione veramente bella. Questa qui di Lila Downs e di questo album dei peccati e dei miracoli, insomma, dove i testi parlano di amore, del disamoramento, dove ci sono dei versi dedicati a Zapata piuttosto che anche al mezcal, e una citazione molto pregna anche a las molendares, che sono praticamente le mogli che facevano le tortillas. E quando sono le 21:20 passiamo da una voce che rappresenta molto bene il Messico di oggi a una voce che è stata spesso definita la voce del Messico, una grande interprete che è scomparsa, dovrebbe essere nel 1994, per un tumore al pancreas o al fegato. Amparo Ochoa e il suo ensemble, ci ascoltiamo questa sera con El Barzón. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a medias tierras el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba pateando, el barzón iba rozando, el sembrado me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hable cuando ande arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de mes que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos pues no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el maíz que te toca, no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mis tierras para seguirlas sembrando. Y ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. Pues me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja. ¡Ay, qué patrón tan sinvergüenza! Todo el maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Échelo, oiga. Cuando llegué a mi casita, ay, se puso bueno, mijo. Me decía mi prenda amada, ¿dónde el maíz que te tocó? Le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Y ahora voy a trabajar para seguirle abonando 20 pesos. El Barzón, lei Amparo Ochoa e il suo ensemble. El Barzón in realtà è anche un movimento della classe media e povera degli agricoltori, andava proprio nella difesa, negli interessi agricoli del Messico, e semanticamente, letteralmente, questa parola dovrebbe stare a significare proprio, se il mio inglese non, insomma, è abbastanza decente, il gioco, l'attacco dove veniva infilata la catena per trainare l'aratro. E che poi, insomma, è un termine questo di questa classe politica che hanno proprio preso a prestito da una canzone rivoluzionaria messicana che parla proprio di ingiustizia nei campi. Il loro motto, il motto di questo movimento è "Devo, non niego, pago lo giusto", ossia devo, non lo nego, io non lo nego, però pago quello che è giusto. Insomma, questo era proprio un movimento che promuoveva la cultura di ignorare il debito, proprio attraverso ad esempio l'utilizzo di canali giuridici, di pressione soprattutto giuridici o sociali, ed è stato spesso criticato per questo, però la realtà è che si presenta proprio come la conseguenza naturale di tutte le politiche economiche liberali, anche in senso agricolo, andate completamente a puttane. E questa canzone dovrebbe far parte anche lei di quel macrogenere, in realtà, che è la musica ranchera e che al suo interno contiene diversi sottogeneri: lo huapango, il bolero ranchero, il corrido, e sono un po' tutti timbri differenti che vanno nella direzione dei ritmi del valzer piuttosto che della polka o anche dello stesso bolero, naturalmente, e che fanno così risalire il suo periodo di nascita più o meno all'inizio del 1800, però si sviluppò soprattutto con il teatro nazionalista post-rivoluzionario dopo il 1910, e soprattutto divenne un'espressione musicale popolare del Messico e così poi diffondendosi nei vari paesi latinoamericani grazie all'avvento del cinema, proprio grazie al cinema messicano degli anni 40, 50 e 60. Testi che, come Lila Downs, parlano soprattutto inizialmente della rivoluzione messicana, della vita, della sopravvivenza quotidiana, i cavalli, la famiglia, i bar, le cantine, e poi l'accento si è spostato col passare del tempo maggiormente sulle storie d'amore. Questa canzone che abbiamo ascoltato del El Barzón, anzi non questa ma la prossima canzone che vi voglio proporre, che si chiama La Maldición de la Malinque, è una versione che ne è stata fatta una sua interpretazione spettacolare proprio a cura di Amparo Ochoa e colui che gli ha dato le parole, che dovrebbe essere Gabino Palomares, che ha dato le parole a questa leggenda, a questa maledizione di Malinzin, di Malinche o Dona Marina. Llenaron de vergüenza y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos. 300 años. Los Folcloristas, gruppo di musicisti che arriva da Città del Messico e che sono impegnati nella diffusione della musica tradizionale latinoamericana, hanno dato così la vita a questa canzone che vede il testo di Gabino Palomares e che è l'interpretazione musicale di una, non so se sia una leggenda o sia completamente storia, Malintzin, Malinche, o piuttosto conosciuta come Donna Marina, era una donna azteca che in infanzia fu ceduta ai Maya, che erano i loro rivali. Si usava parecchio fare questa cessione della donna, e poi nel 1521 arrivarono gli spagnoli con i suoi 500 soldati al seguito di Hernán Cortés, e questa ragazza dai Maya agli Aztechi chi passò da quest'ultimi proprio a questo Cortés, e quando Cortés si accorse che la ragazza parlava correttamente e correntemente sia il Nahuatl, che è la lingua proprio franca del Mesoamerica, che è su per giù, che interessa il millennio tra il VII e VIII secolo e l'arrivo insomma coloniale degli spagnoli, e parlava questa lingua, parlava la lingua azteca, parlava la lingua maya, e si impadroniva molto in fretta anche del castigliano, e così ne fece la sua interprete ufficiale. E questo che sta a significare è venuto col tempo ad identificare un po' una maledizione, la maledizione della Malinche, oppure il malinchismo, un termine che sta proprio ad indicare la soggezione degli interessi nazionali a quelli del capitale straniero. Qui soprattutto verso il versante nordamericano. E questa dunque era una così un'altra interpretazione della cultura indigena, che di cui il Messico è ancora abbastanza, ecco, fornito. Tra gli Aztechi, Maya, i Zapotechi, i Mixtechi, c'è qualcuno che tenta di, insomma, di preservare e far restare in vita la tradizione indigena. Così fanno il trio Los Chapas del Comacuen, o Comacuen, che è una regione che in realtà non so precisamente geograficamente dove sia, però appartiene a un genere musicale, a una popolazione, quella dei Pure Pecea, i Pirukea o i Pirecua, forse più detti meglio, forse il termine esatto è proprio questo, il Pirecua, così italianizzato, è quello dello stato del Mico o Michoacán, ed è una, come vi ho detto, una un'etnia a parte, un'etnia, un popolo indigeno che viveva così in questa regione, che volevo in realtà andarvi a trovare, ma per adesso lasciamo perdere. Andiamolo ad ascoltare, sono veramente ottimi musicisti, l'ascoltiamo con un'antologia del volume 3 del 1995, la canzone si chiama Selita. Trio Los Chapas de Comacuen con questi Pirecua, che sono andato ad informarmi un po', ed è una parola in lingua indigena che significa proprio canto. E leggo, tutti i Pirecuas vengono di solito così, sto leggendo in spagnolo, dunque scusatemi, vengono conteggiati, vengono, insomma, vengono messi su in questo linguaggio nativo, altri in castigliano, e proprio la viene fatto da questa popolazione, che è l'espressione di questo, di questa piccola parte di popolazione indigena del Pure Pecea, e sono proprio un modo, insomma, per esaltare la loro coscienza etnica, per salvaguardare questi canti che in origine, almeno pensate, erano la miscela di canti religiosi dei missionari europei con le reminiscenze della musica indiana, e sono diventate un po' il messaggio principale della preservazione della loro cultura, in ritmi che vanno dal 6 ottavi, il ritmo abageno, al invece a un ritmo valzerizzato, se così possiamo dirlo, in tre quarti. E questa canzone veramente mi piace veramente un casino, non so perché. Comunque, ultimo gruppo per quanto riguarda il Messico per questa sera, rimaniamo sempre nel filone indigeno e andiamo di preservazione in preservazione, andiamo in un'altra capitale di un altro stato, Veracruz, dove arrivano un gruppo fondato nel 1973 che si dovrebbe pronunciare Wiccani, Tlen Wiccani, e sono uno dei maggiori interpreti proprio della loro musica folclorica, un gruppo che significa, con la parola significa esattamente i cantanti, e attraverso questo linguaggio, quello del Nahuatl, anche loro cercano di far insomma rivivere la tradizione mesoamericana. Thank you. le cantara. Me pidió que le cantara el cascabel por menor y que no me dilatara, me lo pedía de favor. Ay, como resumba y suena. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel en la arena. La chicoña negra. È come arrivare tra le rovine di un tempio antico, caduto, consumato. Il viaggiatore che giunge da quelle parti deve ricostruire qualcosa che non esiste più. Così è il sacro per molti di noi, un lavoro di ricomposizione della figura. Questo era l'incipit, quello che vi ho letto, dei concerti sacri di Luigi V, con cui siamo rientrati proprio qui a Roma quando mancano 10 minuti alla fine della trasmissione. E i concerti sacri sono proprio chiamati così perché la maggior parte di essi sono stati registrati live all'interno di basiliche, anche se questo pezzo dal nome Sacra Songlines, che in realtà penso che vi ho già passato molto molto tempo fa, è stato registrato nel 2004 dal vivo all'Auditorium Parco della Musica e vede Badara Sek, un collaboratore spesso assiduo di Luigi V, alla voce, proprio lui il compositore a cui ci stiamo appoggiando ai live electronics e al sax soprano. C'è anche Paolo Freso alla tromba, Enzo Pietro Paoli al contrabbasso e Mangala Tiwari ancora alle voci. Questi concerti sacri, vi leggo ancora un pezzo, è proprio l'unione e la ricostruzione di una forma in tempo reale del Mediterraneo e di tante etnie, di tante religioni del Mediterraneo. Sto anche parlando della gioia che abbiamo avuto, dice Luigi V, noi ebrei, noi cristiani, noi musulmani, ma anche noi buddisti e neri, o molto biondi o solo laici, nello stare insieme sulla stessa scena con migliaia di spettatori in ascolto a ricostruire una forma in tempo reale, una forma possibile, una delle tante forme possibili per questi concerti sacri di questo compositore che va così nell'area creativa in cui convergono sia l'antropologia della musica da una parte, la scrittura musicale contemporanea dall'altra e le nuove tecnologie applicate. E con lui andiamo a sentire un'altra canzone, vediamo, in realtà la scaletta è ancora lunga ma penso che dovremmo tagliare molti brani che avevo previsto per questa seconda parte, che è praticamente arrivano tutti dall'area romana. E andiamo a sentire ancora Luigi V, o meglio un pezzo, perché lui è solo così un maestro che dirige un purpurri di strumentisti, di musicisti davvero davvero molto molto bravi. In questo caso andiamo a sentire Sunaulos, che è stato preso dal 24esimo Festival Internazionale della Zampogna di Scapoli, o Scapoli, penso più Scapoli, che dovrebbe essere un paesino di provincia di Isernio, Campobasso, comunque in Molise sicuramente. Con lui, con Luigi V, c'è il clarinettista israeliano, dovrebbe essere Shmuel Hakieser, c'è Orazio Corsaro che dovrebbe suonare una zampogna sarda e Givan Gasparian che è un suonatore di duduk, che sentirete proprio in apertura di questa canzone che andiamo ad ascoltare insieme alla l'orchestra La Mainarda, l'orchestra La Mainarda che dovrebbe rappresentare forse proprio così la territorialità di Scapoli, di questo festival, e al cui interno ritroviamo Viebe Stodel al cavalle, alla gaita macedone, Gianni Perilli alla ciaramella, Livio Di Fiore ancora ciaramella, Guido Iannetta zampogna molisana, Emilio D'Alessandro grande zampogna, Xuacu Arnieva gaita asturiana, Claudio Giagnotti cavallo e tamburelli a cornice, che ricordiamo Claudio Giagnotti, anzi vi ricordo che è un componente dei Mascheri Miri, Giulio Costanzo alla marimba strumenti e percussione, Mario Muccitto fisarmonica, Luca Spagnoletti alle tastiere programmazione elettronica, Luca Spagnoletti che dovrebbe essere un insegnante di musica elettronica qui nell'area romana, dunque forse probabilmente non è l'orchestra rappresentativa territoriale di Scapoli ma è veramente un'orchestra con all'interno dei grandi personaggi. Andiamo ad ascoltare questo bolero del Piffero, veramente una bella rivisitazione del Ravel. Thank you. Grazie. E questo dunque il bolero del Piffero dal vivo, con all'inizio il bellissimo suono del duduk, il l'oboe a doppia ancia armena, suonato da un mostro sacro, Jivan Gasparyan, che in questo caso praticamente è stato sostenuto dalla gaita asturiana, galiziana, non mi ricordo, vediamo se lo vado a ritrovare. Una gaita che suona il musicista Xuaku, perché di solito il duduk si suonano in contemporaneo, ossia uno in Armenia almeno, da dove arriva questo strumento fantastico, uno gli tiene il bordone e l'altro ci improvvisa su. In questo caso, siccome Jivan qui non aveva nessun altro bordone che l'aiutava, allora Xuaku si è prestato con la sua gaita. Volevo proprio ritrovarvi il gaitero asturiano, sì, quindi è una gaita asturiana, sì, vi confermo. Con questa gaita ha proprio fatto quello che per secoli hanno fatto il secondo duduk, quello del bordone. Dunque è veramente così, una sperimentazione anche banale se vogliamo, ma veramente nuova. E andiamo a chiudere questa trasmissione, chiudiamo con un gruppo sempre attivo qui a Roma, che prima si chiamavano gli Indaco, poi si sono interrotti per un po' di anni, adesso sono tornati, non mi ricordo da quanti anni, però hanno pubblicato nel 2010, quindi appena più di un anno fa, l'album che si chiama Su Mundo, e il progetto è a cura di un'idea di un grande polistrumentista della scena world italiana che si chiama Mario Pio Mancini, insieme a un tastierista ed arrangiatore di nome Antonio Nastasi. Andiamo ad ascoltare una canzone che si chiama Gilgamesh e che vede proprio il nostro Luigi V al soprano sax e Sanjay Kansa Banik alla voce. Thank you. in Nu Indaco, dove l'aggettivo nu sta ad indicare proprio l'apertura sonora del nuovo progetto di Mancini, ossia la partenza dalle tradizioni musicali della Sardegna e poi un percorso attraverso molte sonorità del Mediterraneo, ma anche influenze che, come avete sentito in questa canzone, vanno verso il rock o l'elettronica dark wave. Siamo arrivati alla conclusione, abbiamo anche sforato di 3 minuti. Noctibus Fanis è qui già al mio fianco, e allora prima di chiudere vi voglio ricordare 2 appuntamenti. Il primo è giovedì prossimo, con noi ci saranno 2 compagni a tenerci compagnia, Antonio Marotta e Michela La Torre, che presenteranno un progetto appena uscito qui a Roma che si chiama Canti a Dispetto. Lo spettacolo che propongo, dice Antonio, Canti a Dispetto, nasce dallo studio di una particolare forma di canto sul tamburo diffusa in piccole comunità del Vesuviano. Dunque ci terranno delizia con alcune storielle, ci presenteranno questo progetto e soprattutto ci faranno ascoltare la loro musica dal vivo. I Canti a Dispetto, giovedì prossimo alle 21 alla Cicogna Nera, mentre il giorno prima, mercoledì alle 20 al CSOA Forte Prenestino, vi ricordo che c'è l'appuntamento mensile per la cena di Scarceranda. E per questo febbraio ci saranno dentro a tenerci compagnia un gruppo che fa musica rebetica, che non a caso è il blues della penisola ellenica, nata proprio all'interno delle carceri. Dunque ci sta proprio a fagiolo, come si suol dire. Dalle 20 al CSUA Forte Prenestino mangerete, e intanto gli Evie Van da sotto vi faranno un po', vi terranno un po' di compagnia. Intanto ve li faccio riascoltare ora in chiusura con un brano rebetico tra i più famosi e più rappresentativi, Pendecronia di Casmenos, che bene o male dovrebbe significare 5 anni carcerato. A giovedì. Something.